Ricordate, nel percorso A, una corrente vi spinge a 9 metri al secondo, dalla quale ne va sottratta una che vi rallenta a 6 metri al secondo. Nel percorso B, due correnti favorevoli di 3 metri al secondo e 4 metri al secondo si sommano, ma una contraria a 2 metri al secondo le riduce. Nel percorso C, una corrente vi aiuta a 7 metri al secondo, ma viene ridotta da una contraria a 1 metro al secondo.